test di ammissione, come sapete, non si improvvisa. È una parte di conoscenza. E intendiamoci, mi chiedete, ma tu sei veramente convinta che il test di ammissione, così com'è, è il miglior test possibile per selezionare gli studenti di medicina? Ebbene, la mia risposta, no. Però il criterio di oggettività è che mentre io faccio la mia azione, tra virgolette, politica, per cambiare il test, tu devi fare la tua azione concreta, quotidiana, esistenziale, di misurarti con quello che oggi è il test. Su questo non discutiamo. Possiamo cambiarlo, ma domani tu oggi devi fare questo. E se non lo vuoi fare oggi non c'è problema, lo fai l'anno prossimo. E se non lo fai l'anno prossimo, lo fai anche l'anno prossimo. Ci sono ragazzi che lo tentano anche 3 volte. Questi ragazzi, se avessero immaginato quando erano in prima liceo, in terza liceo, vecchia, è classico, sto parlando comunque, uguale se fosse terza liceo scientifico, quindi davanti a una prospettiva di 2 anni, avrebbero potuto giocarsi diversamente le loro corde. Dopodiché tu non puoi venire alla fine del 5º anno a contestare un sistema nel quale negli anni precedenti hai ignorato le regole. Ma di questo possiamo citare 1000 esempi. Possiamo citare, per esempio, in un campo totalmente diverso, i determinanti di salute. Tutti sappiamo che i determinanti di salute, ne cito 2 su 4, potrei anche citarne 3, che sono non fumare, non ingrassare, fare sport. Cioè alimentazione, sport e non fumo, sono i 3 determinanti di salute. Tu non puoi venire a un certo, non puoi immaginare che a un certo punto tu all'improvviso, siccome hai deciso che vuoi correre la maratona, quest'anno non c'è stata la maratona di New York per via di tutta la disgrazia che hanno avuto con il loro ciclone, e non puoi pensare di vincere la maratona di New York dopo che hai fumato tutto l'anno, sei ingrassato di 5 kg e non ti sei mai mosso dalla sedia. Non c'è problema, la farai. Ma se vuoi fare la maratona, devi sapere quanto tempo ti serve per prepararti a questo. Allora, noi, quando pensiamo al progetto, che è quello che la domanda dell'incontro chiede, e chiede, ma tu, questa guardate, è la frase tipica con gli studenti del campus, ma tu che vuoi fare da grande? E questa è la domanda che ogni genitore, a mio avviso, dovrebbe porre al proprio figlio. Ma tu che, perché dico agli studenti del campus? Perché arrivano alla fine del 6º anno, arrivano al 5º anno, 4º, 5º anno, che vogliono fare la tesi in, fate esempio, cardiochirurgia, perché hanno deciso che la cosa migliore della medicina è fare il cardiochirurgo. Peccato che tu in fisiopatologia c'hai questo voto, in cardiologia c'hai quest'altro voto e il professore la tesi non te la dà. Come si dice, ci dovevi pensare prima. Capite dove sta lo sforzo importante? Poi si può, per carità, uno dice non ti preoccupare, aspetti 1 altro anno e poi entri, tutto è possibile. Ma ci sono dei costi che comunque li devi pagare. Allora, questa è la libertà vera con cui i ragazzi progettano le loro scelte. E con cui noi però ci assumiamo anche il rischio della loro libertà. Alcuni di voi ricordano che quando circa 10 anni fa, nel 2000, ci fu l'anno del giubileo, e ricorderete che il centro nevralgico del giubileo era il famoso abbraccio benedicente, il famoso quadro di Rembrandt, che rappresentava il padre del figliol prodigo. Abbiamo insistito tanto perché la parabola non si chiamasse la parabola del figliol prodigo, ma la parabola del padre, perché quello è la descrizione di paternità più alta che ci possa essere. Penso che tutti e due conveniate che tra quei 3 l'unico che si comporta veramente bene è il padre. Ma dove sta la qualità di questo padre? Sta nel rischio che corre nella libertà del figlio quando a un certo punto questo figlio va e gli dice, padre, dammi la parte di mia eredità. Sai, uno che viene e ti dice, dammi la parte di tua eredità, e più o meno tu sai che se ne sta andando, puoi anche immaginare facilmente cosa farà con quei soldi. Non a caso li spende con gli amici, bevendo e con le prostitute, così racconta il Vangelo. Fino a che si trova a mangiare le ghiande dei porci, che il padrone nemmeno gli dava. Quindi noi abbiamo, come dire, un'implosione totale di quella che è un progetto di vita di una persona. Che cosa avrà voluto fare questo ragazzo con i suoi soldi? Non lo sapremo mai. Sicuramente voleva evitare la responsabilità della gestione di quella che poteva essere la tenuta di famiglia. Quindi la responsabilità di un'assunzione di continuità con quello che era l'impegno di suo padre. Ma suo padre lo lascia andare. È un mistero, perché non solo lo lascia andare, e questa è la grandezza della relazione genitore-figlio, ma è assolutamente convinto che questo figlio tornerà. Cioè il mistero di questa storia è questo padre che sale tutti i giorni in cima alla torre a vedere se per caso il figlio arriva all'orizzonte. Ma gli ha lasciato andare, sapendo che avrebbe accumulato una serie di errori. Però la forza è la relazione di fiducia che questo padre ha nei confronti di questo figlio, e che effettivamente è vincente, perché a un certo punto questo figlio ha raggiunto, come dire, il livello più basso della sua esperienza, decide di tornare, perché dice: a casa di mio padre anche i servi, anche gli ultimi dei servi hanno qualcosa da mangiare, un posto dove stare. E lui torna non per pretendere, ma torna per essere trattato in un certo modo. E ancora una volta questo padre lo sorprende. Lo sorprende perché gli corre incontro, perché mentre gli corre incontro dice a uno dei servi: prendi la veste preziosa, si toglie l'anello, comanda un altro di ammazzare il vitello grasso. È talmente straordinario nella sua magnanimità da ovviamente suscitare l'invidia e la gelosia dell'altro figlio, al quale pure comunque dice: figlio mio, ma tu potevi prendere tutto quello che volevi, perché non lo hai? Perché non hai ucciso nemmeno un capretto con i tuoi amici? Ed è rimprovero, come dire, da un lato della dissipazione dei talenti, dall'altro della avarizia, della pusillanimità di quest'altro. E questa capacità di stare, quindi anche lui poteva aver detto, il padre poteva aver detto al figlio maggiore: senti, ma perché non organizzi una cena con i tuoi amici, li inviti, tu sei ricco, tu stai bene, ma non glielo ha detto, gli ha lasciato anche lì la sua libertà. E nel momento in cui il figlio torna, che questo dice: ma perché non l'hai fatto? Era tutto tuo. Ecco, il mistero del progetto è sempre un mistero di una libertà, ma è una libertà che non ti lascia solo. Ed è questo quello che io contesto a questo ragazzo che dice: ci avete lasciati soli. Io non credo che nessun padre, nessuna madre abbia lasciato solo il figlio, solo che spesso non abbiamo saputo avere quella sicurezza interiore nei nostri valori, nei nostri criteri, ma anche quella sicurezza interiore che accetta che tu mi contesti. Io non è che io non ti lascio solo, è che ho paura che sia tu a lasciare solo me. Capite l'equivoco educativo su cui oggi corriamo? Questo ragazzo dice: mi hai lasciato solo e io non riesco a vedere il mio futuro. Ma io sono sicura che quel padre non lo ha lasciato solo perché aveva paura, paura che il figlio, diciamo simbolicamente, dicesse: me ne vado. Tutto il contrario di quest'altro padre, che invece ti lascia andare perché è sicuro che tu torni, sa che tu non lascerai solo lui, per cui tu riesci ad accettare il senso della distanza. Allora capite che la dinamica che noi dobbiamo mettere in piedi oggi è la dinamica di chi si riappropria dei propri punti di riferimento. Non stiamo parlando dei punti di riferimento dei figli, stiamo parlando prima di tutto del riappropriarci noi dei nostri punti di vista, dei nostri punti di riferimento, di riappropriarci noi dei nostri valori, di metterci davvero davanti a una sorta di quadro che dica: ma io che cosa penso davvero? Io che cosa voglio? Quali sono davvero i valori? Lasciatemi utilizzare una parola che si utilizza in modo abbastanza targato, però io vorrei utilizzarla in modo più ampio e più esteso. Quali sono per me i miei valori non rinunciabili?